foglio bianco, ti penso, ti manco. Chissà se le lacrime affonderanno nel fango. Tu insisti e rimango, ma non ci tengo. Domani la farsa continuerà sempre allo stesso modo. Io vivo attento, sai, ma non mi muovo. I volti attorno parlo tanto, ma non li rinnovo. Cazzo, ci fosse una persona che si merita quello che provo, sarebbe un fiore in questo rovo. E invece tutte spine, spine, numeri a caso senza un vero fine. La nostra terra noi l'amiamo tanto, ma l'aiutiamo solo a morire. Il cuore freddo e nero è diventata moda giovanile. Io ci sto dentro ma cerco di uscire, e tu continui a farti risentire. In questo gioco da impazzire, vorrei fermare il tempo un paio d'anni fa, quando eri qua e volevi un bacio senza le tue stupide paure. È normale che adesso pensi a me se non trovi da fare. Interi viaggi a litigare, e dopo io un cazzato teso, tu protesa per farti abbracciare. Ed eri bella da collezionare, ma un uomo a volte dà di testa e lascia tutto per ricominciare. Lo so che dovevo fermarmi a pensare, ma ho ragionato distinto e ora distinto vado in questo mare agitato. Pirelli a caos e c'è una strage di stato, un futuro spacciato. Il bel paese sempre più somiglia a un campo minato. La gente brama per restare senza fiato, ed ogni giorno qui si premia l'omicidio più brutale pensato. Soffro la vita perché sono umano, e nella pioggia resto qui col tuo sorriso in mano. Quando gli eventi asciugheranno il tuo cuore pian piano, sbattiti in faccia che cosa eravamo. Ormai, ormai. Ormai è per sempre.